9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes. Buongiorno cari ascoltatori, buon 6 giugno e auguri a chi si chiama Norberto. Riprendiamo dopo qualche tempo, qualche flash per capire perché i Doors sono sempre di attualità, visto che sui mercati questi europei cattivacci dopo 2 anni e mezzo non riescono proprio a smentire di non avere una risposta alla loro mancanza di una rete cooperativa per affrontare i problemi degli eurodeboli. Vi do solo qualche flash sul fatto che nel corso della notte Moody's questa volta ha abbassato il rating di banche tedesche e austriache. Questo fa capire anche ai tedeschi che oramai è inutile ritenersi immuni. Un servizio di Der Spiegel ieri diceva: è finita l'illusione che con la nostra crescita siamo immuni dall'eurocrisi. Comunque, con l'abbassamento del rating stabilito per 6 gruppi tedeschi e per alcune controllate di banche tedesche all'estero, stiamo parlando delle branch parigine americane di Commerzbank, che è la seconda per esempio banca tedesca, poi stiamo parlando di Dresdner Bank e così via, arriva un'ondata di abbassamenti della solvibilità anche per gli istituti tedeschi. Quanto ai meccanismi del salvataggio della Spagna, fa passi avanti grazie a ciò che si sa riservatamente delle eurocontatti telefonici che sono in corso praticamente ogni giorno. Farebbe passi avanti il meccanismo attraverso il quale con il FSF si danno denari alle banche spagnole direttamente, ma accettando la posizione spagnola del governo Rajoy di non dover subire la troica, cioè la presenza del Fondo Monetario oltre che della BCE e dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, come interlocutore ufficiale, perché Rajoy ha detto: se ci date la troica come ai greci esplode il paese e io non sono più in condizione di governare. Parrebbe che questa euroconferenza telefonica che c'è stata ieri e che ha rassicurato i mercati a mezza giornata abbia fatto fare qualche passo avanti da questo punto di vista. Le reazioni sulla stampa tedesca, trovate su Frankfurter Allgemeine un articolo di Holger Stelzner, che è il suo responsabile, diciamo così, dell'informazione economica del giornale, che ammonisce severamente sul fatto di dare aiuti alla Spagna senza un controllo effettivo attraverso la troica del piano di rientro delle spese del governo. È un errore, scrive, perché questo è un meccanismo destinato a estendersi ulteriormente per tutti i paesi eurodeboli, a quel punto di fronte all'effetto contagio delle loro banche. E allo stesso ritornello più o meno si uniforma Handelsblatt. Handelsblatt ha un articolo in prima pagina in cui critica molto duramente Mario Draghi, il presidente della BCE, e il suo piano illustrato la settimana scorsa parlando al Parlamento Europeo di una euroarea che uniscano solo i criteri di vigilanza fin qui distinti a livello nazionale, ma una vera e propria rete di intervento diretto in caso di problema per diverse decine di banche di rilevanza europea. Ebbene, l'Handelsblatt attacca questo piano dicendo che è in realtà un attacco ai risparmiatori e ai contribuenti tedeschi, perché inevitabilmente implica, scrive Handelsblatt, la disponibilità, il mettere mano a pacchi di miliardi di euro in caso si dovesse sostenere un così gran numero di banche europee automaticamente senza vincoli per i governi. Quindi, come vedete, è una accusa analoga a quella lanciata dalla FAZ. Anche il capo dell'autorità che vigila sul mercato finanziario tedesco, BaFin si chiama l'autorità finanziaria, e il capo si chiama Elke König. Anche Elke König ieri ufficialmente ha detto: non sono d'accordo con quello che ci indica Mario Draghi, c'è bisogno di un cammino graduale per passi, cominciare con l'unificazione delle banche automaticamente disponendo una rete di salvataggio, accresce il fatto che i governi dicano deve valere a maggior ragione per noi ciò che si fa per le banche. E quindi, come vedete, lo scontro è ben lungi dall'essere risolto. Martin Wolf, sulla sua column sul Financial Times, scrive: non avevo per tanti anni capito come davvero ci si potesse avvicinare a riproporre un crack come quello del 1929-30, e in questi giorni sempre di più capisco invece come la storia si possa ripetere. Questo è l'attacco del pezzo che ho trovato di Martin Wolf, e fa capire come ci sia poco da intonare altre canzoni che non quelle dei Doors. Nel frattempo, un sondaggio sul Bild, quindi il giornale fino a 10 milioni di lettori, popolarissimo in Germania, e che è condiviso con Stern, il settimanale. Il 49% degli tedeschi interpellati preferiscono che i greci lascino l'eurozona, e il 39% solo dichiara di preferire che i greci rimangano in una moneta comune. Il resto risponde: non lo sa. Perfetto, quindi come vedete andremo avanti i Doors, e oggi andiamo avanti i Doors anche per un'altra ragione. In questo 6 giugno San Norberto, incredibilmente, è un altro segnale che registra l'evoluzione di ambiti istituzionalissimi, abitualmente assolutamente resti a ogni tipo di protesta ruborosa, eppure le condizioni dell'Italia a questo spingono. Oggi l'ACI, l'Automobile Club Italiano, ha proclamato lo sciopero della benzina, e lo ha proclamato contro il caro carburanti. L'Automobile Club d'Italia sottolinea come oramai bisogna ricorrere a gesti di protesta civile, ma per farsi sentire, perché è una deriva assolutamente inerziale quella dell'aumento della pretesa fiscale da parte dello Stato sull'auto. Pensate che c'è stata una stima per la quale l'aggravio per effetto delle manovre dell'anno scorso sull'auto è di tra tasse e aggravio dell'RCA eccetera di altri 9 miliardi di euro, e sull'auto complessivamente, sull'auto in quanto accise, IVA sulla benzina, tasse di registro, immatricolazione quella provinciale e così via, l'auto già è uno dei comparti che dà entrate fiscali più significative complessivamente allo Stato, perché nel 2010 ben 67,8 miliardi di euro sono entrate nelle casse dello Stato, in una maniera o nell'altra collegate all'auto, agli oli lubrificanti, a tutto ciò che fa parte della filiera. E pensate che questi 67,8 miliardi sono il 16,6% del gettito fiscale nazionale, e per effetto delle manovre, delle quattro manovre triennali deliberate l'anno scorso, sono altri 9 miliardi di aggravi. L'accisa aumenta di volta in volta, è aumentata anche per il terremoto, naturalmente dicendo che devono essere i privati naturalmente a sobbarcarsi della sterilizzazione in pompa. Allora, abbiamo con noi per parlare di questa decisione di protesta legale assunta oggi dall'ACI il suo presidente. Io lo saluto e lo ringrazio, e con noi Angelo Sticchi Damiani. Lo avete sentito anche brevissimamente stamattina molto presto nella nostra mattina radiofonica dopo le 6:45. Abbiamo deciso di dargli minuti in più per spiegarci come mai anche l'Automobile Club si mette a dichiarare scioperi fiscali di protesta. Prego, buongiorno. Buongiorno dottore. Guardi, è chiaro che non è una decisione presa così, ci abbiamo ragionato, ci abbiamo pensato e abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento di dare un segnale, sperando che gli italiani colgano questa opportunità, questa occasione. Noi gliela abbiamo servita. Si tratta di spiegare al governo che ormai il livello di tassazione sulla benzina ha raggiunto dei livelli che peraltro non producono più effetti dal punto di vista fiscale, perché a ogni aumento c'è una riduzione dei consumi più o meno equivalente, per cui puoi immaginare che tutto questo si traduce in un sostanziale pareggio poi alla fine, ma con un danno a tutto il mondo dell'auto che è sotto. Pronto? Ecco, sì, prego, c'è stato un secondo in cui la linea si è interrotta ma poi è tornata, prego. E quindi naturalmente, come le puoi immaginare, la sensazione che noi abbiamo è che si stia danneggiando un comparto importante nel PIL dell'Italia, nell'impil italiano, chiedo scusa, con tutto il settore dell'auto, quasi inutilmente, non c'è quell'effetto, perché d'altra parte, come anche oggi mi sembra la Corte dei Conti dica sulla stampa, non ci sono stati quei ritorni che si aspettavano. C'è ormai uno stato di abbandono dell'auto dove è possibile, cioè noi ci troviamo in questa situazione in cui nei grossi centri, dove effettivamente c'è la possibilità di lasciare l'auto a prendere il mezzo pubblico, questo lo si fa e può essere anche un fatto positivo, potrebbe essere anche una svolta, diciamo, virtuosa, ma lei immagina dove tutto questo non è possibile, che poi la maggior parte degli italiani non hanno questa ulteriore possibilità, quindi si tratta di gravare ulteriormente al punto tale che la gente, per esempio, il sabato e domenica non la usa più la macchina, ma la usa solo per lavorare. Ma è nato un discorso, naturalmente non cambia più l'auto, e i dati sono veramente molto, molto preoccupanti. Pensi che noi ci stiamo avviando ad avere nel 2012 1.400.000 immatricolazioni contro 2.400.000, 2.500.000 di 2-3 anni fa. Questo significa in sostanza che siamo molto al di sotto della massa critica, cioè noi abbiamo un sistema auto, vendita, post vendita, parte della produzione, che è un discorso un po' più complesso, che sicuramente in questo momento non ce la fa a reggere, quindi stanno fallendo concessionari, tutto, diciamo, il mondo dell'auto, le officine, tutte ne stanno soffrendo, oltre a un grave aspetto di carattere ambientale, perché come lei sa, quando si immatricolano meno macchine significa che il parco circolante si invecchia, se si invecchia il parco circolante significano due cose, si inquina di più e purtroppo la cosa ancora più importante è c'è minore sicurezza stradale, in quanto che i mezzi sono vecchi, ma soprattutto non abbiamo l'immatricolazione dei nuovi mezzi, che sono quelli molto più sicuri perché sono dotati di accessori che danno molte più garanzie, soprattutto in condizioni particolari. Quindi lei capisce quanti elementi negativi a fronte di quasi nulla. A fronte di quasi nulla, e ricordiamo che il calcolo che si è fatto è che una famiglia italiana spenderà mediamente per l'auto nel 2012 1.680 euro almeno in carburante, ai quali vanno aggiunti 715 euro almeno per l'assicurazione, almeno 270 euro per la manutenzione, almeno 220 euro per parcheggi e garage, almeno 190 euro per pedaggi e almeno 120 euro per le multe, quelle che si pagano subito, poi arrivano le cartelle dopo, non vi preoccupate, questa ultima cifra è destinata ad aumentare, ecco, insieme ad altri costi. Se sommate intanto queste voci approssimativamente calcolate per la spesa familiare italiana media auto nel 2012, arrivate a un totale complessivo di oltre 3.500 euro per gli stessi costi. Un'analisi che usava gli stessi parametri nel 2011 rispetto al 2012, si arrivava a 3.270 e rotti euro. Tra 2.270 euro e 3.500 euro potete considerare quanto rilevante sia l'aumento. Naturalmente io mi metto nei panni del presidente dell'ACI, al quale andrà stretto la parte del barricadero e a proclamare e a invitare, anzi, gli automobilisti italiani a fare lo sciopero dell'auto. Il problema che abbiamo tutti, tutti, dico noi, mi ci metto nel mazzo, che rimaniamo increduli di fronte alla pertinacia, alla durezza con cui lo Stato, il governo pro tempore, che lo ripeto, non ha creato lui il problema dello sfascio dell'Italia, no, se l'è trovato ereditato, nessuno qui è nostalgico dei governi precedenti, né l'ACI né noi, nessuno confonde le responsabilità, ma proprio perché Monti e la sua squadra conoscono i numeri e sono stimati dai mercati, è da loro che pro tempore noi ci aspettavamo. Non dico che pretendessimo, ma ci aspettavamo molto intensamente che di fronte al guaio italiano non sbagliassero strada, dove per sbagliare strada significa continuare quella imboccata da 20 anni, cioè dire che al debito pubblico non si risponde cedendo attivi patrimoniali, ma si risponde facendo pagare ancora più tassi, partendo da un livello già record di chi le tasse le paga. E invece è questo l'errore di fondo del governo italiano. Da ieri sappiamo anche ciò che uno studente del secondo anno mediamente di economia avrebbe potuto dire fin dall'inizio, poiché siamo tra i paesi dell'Unione Europea impegnati in un programma coatto di rientro della finanza pubblica, giusto e sacrosanto, non credete a chi se la prende coi tedeschi cattivi. Io non sono d'accordo con Sebastiano che urla contro la Merkel, stupidaggine. Il problema italiano l'ha fatto la politica italiana in 20 anni prima dell'euro, è la politica italiana che ci deruba con tasse così elevate in cambio di servizi così bassi e che ha continuato ad avere un tasso di spesa corrente del tutto indipendente dall'abbattimento del tasso di crescita reale del paese, indotto da una pressione fiscale che è 45% dei punti sul PIL. No, siccome va calcolata sul PIL legale di chi le tasse le paga, cioè meno 17%, la pressione fiscale è già al 54%, il totale delle entrate è al 49% del PIL, significa che è al 57% del PIL legale. La spesa corrente è non al 50,1% del PIL, ma al 60% del PIL legale, se ci levate, ripeto, la componente di chi le tasse non le paga. Anche uno studente del secondo anno di economia avrebbe potuto dirvi che facendo l'80% del programma di rientro triennale dei saldi pubblici, che costituisce in 81 miliardi di miglioramento del saldo, il grande sforzo che l'Italia sta facendo per rendersi più credibile agli occhi dei mercati di fronte al quale eravamo diventati detonatore dell'euro, ma siamo l'unico paese che ha l'80% di questa manovra fatta di più tasse. Nessun altro paese europeo ha una percentuale così demenziale di miglioramento dei saldi fatti solo da pressione fiscale su chi le tasse le paga. Aumentiamo contemporaneamente le imposte dirette con le addizionali, le imposte indirette con l'IVA in 3 tranche e le imposte patrimoniali con l'IMU e i conti titoli. Allora, anche uno studentillo avrebbe detto, uno studentillo, lo dico apposta, avrebbe detto, facendo in questo modo non solo si fa deprimere il PIL, ma anche le entrate previste non ci saranno, perché ovviamente l'IVA sul mercato domestico si deprimerà con meno consumi e così via. Puntualmente la certificazione è arrivata ieri, nei primi 4 mesi mancano 3,4 miliardi di entrate previste, che significa che se lo proiettiamo a questo tasso di deterioramento delle attività economiche su scala annuale, avremo 1 punto di PIL che manca rispetto alle previsioni, per questa, perdonatemi, demente impostazione, che non potevo attendermi da gente dell'elevatura di questo governo, e per questo noi rimaniamo senza parole. E io credo di potervi dire che questa è la stessa ragione. Io ringrazio il presidente dell'ACI che ha dovuto lasciarci, Angelo Sticchi Damiani, per cui persino una istituzione che fa parte, per così dire, ordinaria del panorama delle attività dei corpi intermedi della società italiana come l'Automobile Club è costretta ad alzare la voce e a dire: oh Stato, ma ti vuoi rendere conto che ci stai portando davvero alla canna del gas? Ecco, allora vediamo adesso come la pensa invece il presidente di ANFIA. E ricordo a tutti che l'ANFIA è l'Associazione Nazionale della Fiera dell'industria automobilistica. Stiamo parlando di una filiera che vale ben più di 40 miliardi di euro. Nel 2010 la filiera ha avuto un fatturato complessivo nel nostro paese di 42,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2009, aveva recuperato l'86% dei ricavi ottenuti nel 2008. Certo che con un mercato dell'immatricolazione dell'auto nel nostro paese che torna ai livelli degli anni 80, con una crisi a doppia cifra stabile degli acquisti dell'auto, delle immatricolazioni, con la caduta verticale di Fiat, eccetera eccetera eccetera, per una parte rilevante della componente della componentistica che lavora per i gruppi dell'automotive, i tempi sono molto molto magri, e di sicuro anche a questa filiera la politica fiscale molto aggressiva dello Stato non aiuta. Allora, buongiorno e grazie al presidente Vavassori. Buongiorno a lei. Concordo con la gran parte dell'analisi molto ampia che ha tracciato prima. Credo che questo governo manchi di una capacità fondamentale, che è quella di comunicare ai cittadini italiani, che non sono il classico popolo bue che vogliamo ritenere, comunicare con chiarezza che se c'è un bisogno temporaneo ci sono condizioni anche perché questo fabbisogno venga ristrutturato e venga riformato. Parlo delle accise dei due centesimi di euro che fatalmente è stata applicata sul carburante. È chiaro che se devono essere 2 centesimi non devono diventare 2,42 centesimi per effetto dell'IVA. Allora occorre dire che sono 1,66 di accise più IVA uguale 2 centesimi, altrimenti la comunicazione non è, secondo me, corretta. E la seconda cosa è una misura temporanea, bene, diciamo anche insieme al prelievo quali sono le condizioni perché questo prelievo venga a cessare. Possono essere temporali, possono essere di maggior gettito, però questo secondo me è fondamentale, altrimenti non il patto fiscale tra cittadini e Stato rischia di essere fortemente incrinato nella sua componente di fiducia. Credo che tanti italiani automobilisti per forza e per decisione siano a supporto di tanti ulteriori sacrifici, purché se ne veda il termine temporale e l'utilità riflessa nei numeri. Oggi francamente questa componente di informazione non la vedo. Presidente Vavassori, lei oltre che presidente dell'associazione lavora manager di un importantissimo gruppo italiano multinazionale, in realtà diventato nel tempo, con la crescita per linee interne, che è Brembo. Quindi stiamo parlando di eccellenza nella tecnologia, nel valore aggiunto, impianti frenanti che forniscono le più grandi case impegnate alla ricerca delle più elevate prestazioni anche nelle competizioni motoristiche, non solo naturalmente in forniture standard per le grandi case mondiali. Ma le chiedo, per la parte alta della vostra filiera che ha saputo e voluto con grande forza quindi darsi una dotazione patrimoniale, una parte di ricerca, investimento e sviluppo capace di portare a questi risultati, però ce n'è poi anche una parte media e bassa che ovviamente vive una realtà dimensionale più contenuta, vive una realtà patrimoniale molto più problematica nei rapporti con le banche, con il credito che ha oramai i cordoni strettissimi, che soffre ancora di più di fronte alle pretese cresciute fiscali dello Stato, e che ha questo problema del mercato dell'auto italiana e soprattutto del produttore nazionale, che è alle prese con scelte di riallocazione, che qui difendiamo come diritto libertà di impresa della Fiat di fare, ovviamente di riallocare dove è più produttivo per lei, ma come ovvio comporta poi dei problemi. Allora, le devo chiedere un'opinione: che impressione si è fatto sullo stato attuale della vicenda Termini Imerese con la Derisio che sta portando un pochino al terrore? Ricordo tutto, la Derisio era l'azienda su cui il governo, vicenda che si determina con il governo precedente, a dire la verità, non con questo, il governo attuale lo ha trovata ereditata questa scelta come individuazione della Derisio come azienda che si impegnava a rilevare gli stabilimenti dei Termini Imerese dismessi con, secondo rispetto alle procedure, dalla Fiat. Siamo a un punto nel cui non si vede il piano, tutti iniziano a terrorizzarsi, e la domanda che molti si fanno è: ma piuttosto che procedere su direzioni di aziende che non sembrano avere la forza, non era meglio offrire e non è meglio offrire gli stabilimenti chiavi in mano a concorrenti magari del produttore nazionale che si sta riallocando altrove, per difendere anche la logica dell'automotive italiano? Ecco, questa è la domanda che le faccio. Aspetti un secondo che prima dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo e subito le do la parola per rispondere. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio. Siamo partiti dalla protesta: consumate oggi, astenetevi dalla benzina indetta dall'ACI, richiesta agli automobilisti italiani dal presidente Angelo Sticchi Damiani. Abbiamo con noi adesso il presidente dell'ANFI, Roberto Vavassori, e anche a lui abbiamo chiesto, oltre che una considerazione sugli aumenti di pressione fiscale di accise sui carburanti, o una domanda su come si può fare, come si può impostare una politica industriale per il settore in così grave crisi. Ho fatto l'esempio dello stabilimento dei Termini Imerese, ma in realtà è per avere un'opinione su se sia il caso o meno di iniziare a mettere mano a una politica industriale per la difesa di un settore che rischia altrimenti, a fronte di queste riduzioni, una contrazione sempre più severa di una parte di automotive italiano che è un punto di eccellenza, solidamente e stabilmente presente nella realtà e nel radicamento territoriale delle specializzazioni produttive del nostro paese. Allora, Presidente Vassori? Il problema vero è che il nostro vulnus, la nostra debolezza italiana è quella di avere avuto per troppi anni un unico costruttore, non aver avuto la possibilità di dialogare e di avere sul nostro territorio più costruttori. Questo è palese quando consideriamo che quest'anno il totale dei veicoli prodotti in Italia sarà di poco più di 500.000 veicoli. La stessa Spagna, che pure non ha marchi propri importanti a parte Seat, ne produrrà più di 2 milioni, 3 milioni la Francia, 5 milioni e 500.000 500.000, quindi 10 volte tanto l'Italia alla Germania. Questo dà l'idea della nostra grave preoccupazione, del nostro gravissimo problema di politica industriale. Francamente non so se siamo ancora in tempo a recuperarlo pienamente, certamente partiamo da una posizione vantaggiatissima. Chi di voi ha negli occhi ben presente la dimensione di Termini Imerese capisce subito che l'iniziativa precedente aveva ben poche possibilità di andare in porto. Oggi credo che sia molto impegnativo anche per questo governo riuscire ad attrarre al tavolo del negoziato dei soggetti interessati, perché oramai la competizione si svolge a livello mondiale e non solo a livello europeo. Il mercato globale per fortuna cresce, quello italiano cala di un altro 20% quest'anno, e quindi è su questi numeri che poi si gioca tutta la partita. Credo che ci vogliano misure molto concrete e soprattutto la capacità di visione, cosa che non c'è stata probabilmente nella precedente analisi, ancora quando il Termini Imerese è stata costruita. Io non posso che dare ragione amaramente, amarissimamente al presidente Roberto Vavassore di Anfia. Temo anch'io che per Termini Imerese possa esitare con elevatissima probabilità, sia le attese di tutti i lavoratori, le tensioni che ci sono state eccetera, nel nulla, perché credo che quella sia una non soluzione. Ma io fin dall'inizio sono rimasto incredulo quando il governo precedente fece una scelta di affidamento di fiducia così rilevante nei confronti di un gruppo che non ha l'equity story, la forza per tenere in piedi credibilmente, ma anche l'ipotesi di un progetto di subentro in un impianto come quello di Termini Imerese. Per me rappresenta uno dei tanti misteri insoluti. Io non credo che la politica debba consistere in promesse che visibilmente non potranno essere mantenute solo per generare illusioni per qualche settimana o per qualche mese. A furia di così procedere, noi smantelliamo interi settori. Buttiamo all'aria qualità che sono del lavoro e sono risorse di coesione sociale, di lavoro e di famiglie ovviamente. E il presidente Vavassori vi ha ricordato la durezza della crisi, le proporzioni della crisi di un paese che sceglie di dare moltissimo per un secolo al suo produttore nazionale, tiene le barriere chiuse per tutti gli altri e alla fine si riduce a produrre meno di un decimo delle automobili prodotte dalla Germania nel nostro stesso anno e meno di un quarto di quello che produce la Spagna, che è in ginocchio più di noi dal punto di vista dell'economia reale e di quella pubblica. Queste sono le amare scelte di un paese che è totalmente cieco nelle sue scelte di medio-lungo periodo. E ripeto, la colpa di questo, lo so che molti di voi la pensano diversamente, non è della Fiat. Non è della Fiat, ripeto, che si è trovata moltissime volte in difficoltà e che adesso balza in groppa nella crisi a un gruppo risanato dai denari del contribuente americano, ed è un tre quarti di miracolo che riesca a farlo. Per quello che è. Il problema è di avere una visione di piattaforma nazionale capace di offrire insediamenti e condizioni adeguate ad attirare gli insediamenti delle altre case produttrici. Se non lo si fa, alla fine ci si riduce così. Grazie quindi al presidente Vavassori. Abbiamo con noi il vice direttore di Quattro Ruote, Massimo Nascimbene, perché questa giornata l'abbiamo dedicata, come ci ha chiesto là, c'è una riflessione su tutte le mazzate, per così dire, che contribuiscono a rendere ancora più grave la crisi dell'auto. In questo 6 giugno si parla tra l'altro a Milano, anche a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, c'è la nona edizione di questo congresso, un'occasione annuale abituale del settore dedicato a auto e flotte aziendale, proprio organizzato da Quattro Ruote, perché lo ricordate, quello delle botte alle flotte e le auto aziendali è un altro dei tanti capitoli degli aggravi decisi con le manovre di rientro della finanza pubblica, come a non farsi mancare nulla, considerando che le auto, le flotte aziendali fossero una specie di bene di lusso, non un bene strumentale per l'impresa, virgola, oppure soprattutto uno strumento attraverso cui sostenere in maniera anticiclica il settore, proprio perché era in difficoltà, come quelle che ci ha ricordato il presidente Vassori. No, il governo ha picchiato duro anche lì. Allora, buongiorno e grazie a Massimo Nascimbene. Buongiorno a voi. Che dal vostro osservatorio, se dovessimo parlare in termini comparati di serie storiche, di punti bassi della crisi italiana del settore, quanto intenso dovrebbe essere la luce dell'allarme per far capire, guardando retrospettivamente, quanto è seria la situazione dell'auto in questo 2012? Ma direi quasi drammatica. Io adesso aggiungo solo un dato ai tanti che circolano e che avete già citato. Un dato che sembra piccolo, 26.600. 26.600 sono le vetture, è la riduzione delle vetture circolanti in Italia che si è registrata nei primi mesi di quest'anno. È la prima volta che succede, da quando esiste la motorizzazione, che diminuisce il circolante. Diminuisce il circolante per i motivi evidenti che mantenere un'automobile è diventata un'impresa per molti insostenibile, che tanta gente si dista della vecchia auto e non è in condizione di comprarne una nuova. Per cui direi che questo è il vero dato che dà la gravità della situazione, al di là degli alti e bassi del mercato e delle vendite del nuovo che, per quanto accentuati, sono in qualche misura ciclici. Vorrei aggiungere, se mi date spazio, due considerazioni. Una in merito all'iniziativa dell'ACI di quest'oggi. Quattro ruote in passato è stata spesso critica nei confronti dell'ACI perché per molti anni ha fatto di tutto meno che difendere gli interessi degli automobilisti. Finalmente vediamo che c'è un approccio nuovo, finalmente vediamo questa iniziativa che sarà pure simbolica, ma a nostro modo di vedere ha una grande valenza, segnale se non altro che gli automobilisti non sono condannati a prendere e a subire tutto quello che qualsiasi tassa, qualsiasi aggravio che cade loro sulle spalle. Quindi ben venga questa iniziativa dell'ACI sull'eccesso del carico fiscale. Mi permetto un'ultima considerazione in merito aggiuntiva in merito al discorso che stavate facendo prima, su Termini Imerese. Anche sì. Qui aggiungo una considerazione, un dato puramente statistico. L'ultima fabbrica automobilistica creata in Europa occidentale è la fabbrica creata dalla Toyota a Valenciennes in Francia nel 2001. Da allora in tutto l'Ovest Europa non è più nata una fabbrica di automobili, alcune sono state chiuse, tutte le nuove realtà sono andate a insediarsi all'est. Oggi come oggi la situazione europea vede una capacità installata di 16 milioni di vetture e un mercato che ne assorbe 13. Questa è la realtà a cui siamo di fronte, per cui pensare che uno dei grandi costruttori mondiali vada ad aggiungere capacità acquisendo uno stabilimento anche gratis, perché di fatto questa è la situazione di Termini, mi pare purtroppo, come dicevate anche voi prima, mi pare purtroppo illusorio. Ebbene, non mi resta che ringraziare il vice direttore di Quattro Ruote, e come vedete quanto a realismo nel descrivere una situazione sufficientemente pessimistica, non siamo soli purtroppo. Sentiamo qualche telefonata. Alessio da Bari, prego. Alessio in linea? No, sento solo una radio amplificata direi dall'eco, ma Alessio non c'è, quindi se non ci risponde vediamo se poi lo richiamiamo. Alberto da Salerno. Buongiorno. Spero di essere chiaro nell'esposizione del problema. Noi abbiamo oggi un minore gettito e una pressione fiscale sulle benzine eccessive. Voglio segnalare in tutto questo che per favorire una nuova azienda nazionale, il metano non viene assolutamente tassato, vale a dire che se io vado a Milano e torno da Salerno con una macchina a metano spendo 29 euro. Se vado da Salerno a Milano e torno con una macchina a benzina ce ne vogliono 150. Ora, non perché il costo industriale di quel prodotto è inferiore, ma perché quel prodotto deve essere dato gratis per le note condizioni. Ora, domanda, non sarebbe il caso di recuperare un poco di accisa da quel settore e sgravare un attimino le accise sui carburanti ben noti, quasi come c'è io che faccio il 740, si in modo intelligente di fare un 740 bis, che non esiste, così il mio carico fiscale anziché essere del 56-60% è del 22%. Allora, purtroppo si è sentito molto poco, ma la sua proposta è riequilibriamo l'eccesso di pressione che c'è per accise più IVA, che va a ricalcolare l'accisa dei carburanti, recuperandolo dal metano, perché lei ce l'ha col metano, cioè propulsori Fiat. Allora, posso risponderle che nel merito questo mi sembra un esempio palmare di come ci ha abituati a ragionare lo Stato. Lo Stato ci ha abituati a considerare impossibile l'idea di diminuire la spesa e le entrate dello Stato, e ci induce a diventare tutti come i CT della Nazionale che si al bar fanno la formazione. Diventiamo tutti autoesperti nell'arte di indicare come compensare eguali entrate pubbliche. E lei mi fa l'esempio: beh, riequilibriamo prendendo più dal metano, come se, caro ascoltatore di Salerno, il totale del metano usato a fini propulsivi automobilistici potesse davvero essere paragonabile a fini di riequilibrio del totale dell'entrata pubblica per componente accisa alla parte relativa ai carburanti. È chiaro che non sta in piedi, ma prima che questo, vede, prima che questo, secondo me è sbagliato entrare nella trappola per cui noi dobbiamo diventare gli esperti dell'eguaglianza di entrate e come si equilibra prendendo di qua e levando di là. Il problema è che c'è bisogno di un ragionamento frontale, è il complesso delle entrate pubbliche che è irreggibile, è il complesso della spesa pubblica da finanziare che non ha pari in nessun paese avanzato, è il complesso della spesa pubblica in cui oltre la metà non è in welfare e servizi, e anche questo non ha eguali in nessun paese avanzato. Dicono che io sono diventato un predicatore, c'è gente che mi insulta perché dice che io sarei per l'abbattimento della collettività e dei servizi sociali. È il contrario. Vi hanno drogato convincendovi che questo Stato è questa roba qua. Questo Stato fa gli interessi di chi ci sta dentro, e non ce l'ho coi dipendenti pubblici. Ce l'ho col vertice amministrativo e coi politici pro tempore, che sono prigionieri del vertice amministrativo della macchina pubblica, perché non sono in condizioni di imporre discontinuità. Ecco perché anche questo governo di persone per bene dice che si può tagliare al più 4 miliardi su 700 di spesa corrente. Sapete che cos'è? È lo 0,57%. Ma immaginate se le imprese dovessero dire ai loro dipendenti che possono al limite tagliare lo 0,57% delle loro spese di fronte alle difficoltà che hanno sui mercati, agli ordini che spariscono, allo Stato che cresce, che chiede l'80% di 80 miliardi in più solo dalle entrate. Sapete quante fallirebbero all'istante e non darebbero più le paghe ai dipendenti se davvero adottassero lo stesso criterio che lo Stato invece vi mette in testa essere non solo l'unico criterio che può seguire, ma che è quello giusto e dovete difendere. Basta, e quindi per il momento intanto le informazioni stradali. Ripartono i Doors per farvi arrabbiare. Il dato che si è elaborato ieri con la CGA di Mestre del nostro amico Bortolussi, bilancio degli anni 2000 nel pubblico impiego: 100.000 unità in meno nel pubblico impiego, da 3 milioni e 7 a 3 milioni e 6. Eppure, di fronte a 100.000 dipendenti in meno nel pubblico impiego, 42 miliardi di euro in più di spesa uscite dalle nostre tasse che sanguinano. Ecco, queste sono le cose che dovreste urlare e gridare. Io lo faccio apposta, perché non sono un matto ad alzare la voce, perché la cosa che mi colpisce è la totale, è un po' abietta, abitudine che abbiamo tutti introiettato di considerare privo di alternative questa condizione. La macchina pubblica è incrementale, siamo noi che dobbiamo dimagrire, siamo noi che dobbiamo vergognarci perché non paghiamo ancora abbastanza tasse per sfamarla. Capite? 100.000 statali in meno, 42 miliardi di euro di spesa in più. Ma come cacchio è possibile non dire loro vergognatevi, vergognatevi? E chi pensa che io sbaglio ad alzare la voce, mi dicono che io non ragiono più. O siete vittime, e io vi compiango, ed è per questo che alzo un po' la voce, o siete dei parassiti, cioè siete dei pidocchi nel crine del cavallo pubblico. In questo caso è il vostro interesse, ed è una battaglia aperta quella degli interessi. Il mio è quello di non chiudere la mia società e di non vedere deperire il lavoro e l'impresa nel nostro paese, che sono la spina dorsale del nostro paese, e lo dico con orgoglio, con tutto l'orgoglio con cui invece riservo disprezzo a una macchina pubblica che ci uccide e che adesso scopre anche che ha meno entrate perché ha alzato troppo le tasse. Beh, ripeto, non ci voleva un granché a sapere che finiva così. E vedrete se a fine anno non ci diranno che la colpa è nostra, è la colpa dell'evasione. Ieri Monti ha detto durezza maggiore contro gli evasori. Ma abbi pazienza, professore, ma scendi sul pianeta Terra e renditi conto di come sta messa l'economia italiana, l'impresa italiana, il lavoro italiano, e invece di continuare a predicare la lotta contro il male dell'evasione, che certo è un male, prima di tutto capisci che dovevi tagliare la spesa, non di 4 miliardi e dello 0,57%, sennò sei tu che ti devi vergognare per primo, per i danni che stai facendo, che non sono paragonabili ai danni di chi per anni ha danzato e fatto cazzi loro, come erano i governi precedenti, non c'è dubbio, però è al momento giusto che si può evitare il disastro con delle scelte giuste. Il momento giusto purtroppo è questo, e chi sbaglia oggi ci condanna a una condizione molto pesante. Ma io ho visto che lì c'è scritto 53, dovevo chiudere a 53, ragazzi. Ah no, c'è un errore, perché sennò mi veniva un colpo. Agostino da Roma. Buongiorno, senti, allora innanzitutto vorrei che altri giornalisti e conduttori dicessero quello che dice lei, ma purtroppo lei è, come dire, è un isolato in questo senso, e questo me ne dispiace proprio per tutto ciò che riguarda il giornalismo italiano. Secondo, il fatto che parlava il signore prima con lei, non mi ricordo chi fosse, del fatto della mancanza di concorrenza, sì. Io che sono un computista commerciale, semplicemente faccio l'autista praticamente adesso al 68 anni, grazie a Monti, per poter mantenere la mia nuova famiglia decorosa, e io non mi lamento, guardi, non sono uno in crisi, però la macchina ci sto molto attento adesso. E cosa volevo dire, io 20 anni fa andavo dicendo che quando gli Agnelli hanno fatto Asso Viadutto, l'Arancia, l'Alfa Romeo, sì. E, no, sbaglio, non vorrei dire stupidaggini, la Maserati, che fece un botto con la Maserati biturbo che sono rimaste tutti dentro gli altri saloni. Io dicevo, ma che, ma sono stupido, io forse un fanatico che penso che questa è una stronzata, ma in effetti poi alla fine l'ha detto lei, e lo sta dicendo quel signore, quell'esperto di prima di quattro ruote, che logicamente questo è successo tutto 20-25 anni fa, cioè non c'è stata più concorrenza in Italia tra costruttori. Agostino, lei ha perfettamente ragione. Infatti, quando diciamo che ci sono errori di lungo periodo della politica, che non si deve sostituire alle imprese, ma che deve impedire a se stessa di non guardare avanti, di come va il mondo, quello è puntualmente ciò che abbiamo fatto. La Fiat certo ne ha beneficiato per un secolo, però è stata la politica che l'ha scelto, La Fiat non era in condizione di imporlo, questi sono gli errori. Allora, grazie anche ad Agostino. Ricordi per chi ci ascolta il numero per Protezione Civile, sostegno e solidarietà alle imprese, ai lavoratori, ai cittadini dell'Emilia colpito dal sisma, resta sempre 45500, voglio ricordarlo. Poi continuate a comprare online nelle librerie Sudditi, il libro dell'Istituto Bruno Leoni, che è il programma di chi la pensa come me e come noi per ridurre lo Stato a non rimetterci in miseria e a farci vergognare per le sue spese esose e da Stato ladro. Terzo, sui siti internet date solidarietà a Giorgio Fidenato e valutate se insinuarsi nel suo processo a Pordenone per sostenere la lotta aperta e dichiarata di un imprenditore che dice basta fare l'esattore fiscale, io ho istituto imposta, non lo faccio, e quindi si è autodichiarato alle autorità tributarie, a quelle penali. Stiamo al suo fianco. Appuntamento a Donali, Stato ladro, basta! Ah.